23 ottobre i cittadini kosovari si recheranno a votare la nuova assemblea del Kosovo, un paese senza uno status politico definito, un oggetto politico non identificato, come dicono alcuni autori, che gode di una sostanziale autonomia all'interno della Repubblica Federale di Jugoslavia, oggi Serbia e Montenegro, ed è sottoposto ad un'amministrazione ad interim guidata dal rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU, oggi il danese Soren Jessen Petersen. Dopo 5 anni di presenza internazionale, il Kosovo si prepara all'appuntamento elettorale con un'economia ormai in caduta libera, con forti tensioni tra le etnie, riaccese dopo i disordini del 17 e del 18 marzo, i giorni della sollevazione albanese contro i serbi e altri gruppi che hanno di fatto segnato il fallimento della presenza dell'UNMIC, la missione delle Nazioni Unite, incapace di sedare la violenza di massa. Cosa cambierà allora in Kosovo dopo le elezioni? I sondaggi dicono che i cittadini sono scettici e che non cambierà nulla. E tra i cittadini serbi sembra prevalere una posizione di boicottaggio. Tentiamo allora un'analisi dell'attuale situazione politico-economica del Kosovo con alcune ONG attive da anni nel paese, con diversi progetti dislocati in città e territori differenti, e con l'Osservatorio sui Balcani, che svolge un lavoro collettivo di monitoraggio, ricerca ed analisi sul sud-est Europa. Partiamo dall'evento elettorale, lo facciamo insieme ad Andrea Rossini e Michele Nardelli dell'Osservatorio sui Balcani. Andrea Rossini, come si sta preparando la popolazione kosovara all'appuntamento elettorale del 23 ottobre? Io credo che ci siano due letture radicalmente diverse in Kosovo. La seconda, che noi prendiamo in considerazione l'atteggiamento della comunità serba o quello della comunità albanese. Per quanto riguarda i serbi del Kosovo, il discorso è abbastanza semplice, almeno per il momento loro hanno deciso di non partecipare. C'è solo una lista civica di sfollati serbi del Kosovo che vivono in Serbia e che si sono presentati. Le altre formazioni, inclusa la maggiore formazione dei serbi del Kosovo, che è la coalizione Povratak, cioè Ritorno, non si sono iscritti, non si sono registrati nelle liste elettorali, per cui verosimilmente non parteciperanno, anche se alcuni osservatori ritengono che all'ultimo momento ci sarà un coup de théâtre, per cui un colpo di scena, per cui anche i serbi in qualche modo parteciperanno. Questa è un'analisi abbastanza dietrologica, però probabilmente con alcuni elementi di realtà, di concretezza, secondo la quale appunto il governo serbo di Belgrado starebbe negoziando con la comunità internazionale la partecipazione dei serbi del Kosovo alle elezioni in cambio di qualche ritorno economico o comunque insomma nel quadro di un negoziato di più ampio respiro. Totalmente diverso evidentemente è l'atteggiamento della comunità albanese, che attende queste elezioni in qualche modo, secondo me, è come un ulteriore passaggio verso un sempre maggiore livello di autogoverno, di assunzione di responsabilità, di trasferimento di responsabilità dagli internazionali agli albanesi. Dal punto di vista del programma politico, diciamo che prima di tutto, per quello che riguarda la questione delle questioni sul Kosovo, cioè la questione dello status internazionale della regione, nei partiti albanesi non c'è differenza nelle posizioni dei partiti kosovaro-albanesi, nel senso che tutti sono a favore. Possiamo dire che tutti sono a favore dell'indipendenza, anche se con sfumature diverse, magari con atteggiamenti diversi. Il Kosovo si prepara al voto e a 5 anni dalla risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del giugno del 1999 è sostanzialmente un paese autonomo, ma senza status definito, un oggetto politico non identificato. Michele Nardelli, dell'Osservatorio sui Balcani, quali sono a tuo avviso le ragioni della mancata indipendenza? Beh, io credo che il problema sia sostanzialmente uno. Partiamo da una guerra che ha lasciato intatti e ha ulteriormente aggravato le contraddizioni che c'erano prima del 99. Quindi noi ci troviamo oggi in un contesto che dell'aggravamento delle condizioni e della non risoluzione del nodo autonomia-indipendenza paga le conseguenze, nel senso che appunto il Kosovo oggi è un ibrido che non ha alcuna caratterizzazione giuridica sul piano internazionale e in più vede appunto aggravarsi progressivamente tutte le contraddizioni sociali e di convivenza al proprio interno. Abbiamo cercato di descrivere questa situazione di fallimento di 5 anni di amministrazione internazionale, e, sia sotto il profilo appunto dell'attuale situazione economica, sia sotto il profilo del fatto che la mancanza di uno status e quindi di un quadro di riferimento di regole condivise dentro la comunità determina il fatto che sia l'area più deregolata di tutti i Balcani, cioè di un'area già di per sé molto deregolata. Questo ovviamente favorisce criminalità economica, favorisce tutta una serie di conseguenze, insomma, che hanno un riflesso sia sulla situazione economica ma anche sulla situazione politica, perché poi questo significa che anche le leadership politiche sono fortemente inquinate dalla criminalità e così via. A proposito di guerra e di presenza internazionale, il Kosovo ha vissuto un boom economico post-guerra, tutto rivolto all'esterno. Andrea Rossini, torniamo al presente. Come si presenta oggi la situazione economica in Kosovo? Quello che secondo me è interessante è che nella campagna elettorale per questo appuntamento del 23 ottobre si sono fatte strada anche non solo queste questioni, diciamo, legate appunto alla guerra e alle questioni in qualche modo nazionali, ma anche le questioni molto più concrete che riguardano il presente del Kosovo. Il presente del Kosovo è una situazione in cui abbiamo la popolazione più giovane d'Europa, una crescita demografica incredibile, ma in una situazione in cui la produzione non esiste sostanzialmente, non esiste da anni. Il Kosovo importa tutto quello di cui ha bisogno, in qualsiasi negozio del Kosovo, qualsiasi cosa tu trovi viene da fuori e non produce assolutamente niente. E su 3 persone, questa è una media, diciamo, all'ingrosso, però significativo, un dato significativo, su 3 persone solo una ha un lavoro, considerando sia il dato dell'economia formale che quello dell'economia informale, le altre 2 sono disoccupate. In questo contesto teniamo presente quello che significa la chiusura dei canali tradizionali di emigrazione nel nuovo contesto determinato dall'Europa di Schengen, laddove appunto i kosovari con un passaporto UNMIK che non serve più neppure per andare in Bosnia non riescono ad avere appunto questo sfogo classico che era andare a lavorare in qualche modo all'estero. Continuiamo la nostra riflessione sulla situazione economica del Kosovo, lo facciamo con alcune ONG dislocate in diverse zone del paese. Il Kosovo è un piccolo territorio dove, dalla fine della guerra, si è attivata la cooperazione internazionale e la politica internazionale si è fatta presente con aiuti economici. Come mai allora non c'è stato un sostanziale miglioramento delle condizioni economiche del paese? L'opinione di Marco Brucoleri, responsabile dei progetti internazionali dell'ICS Kosovo, ONG attiva nel paese da più di 10 anni con diversi progetti. E lì ci sono delle grosse contraddizioni, nel senso che è un paese molto piccolo e grande, più o meno come l'Umbria, ha delle risorse naturali notevoli, aveva delle grosse fabbriche, delle grosse infrastrutture che attualmente sono completamente abbandonate a se stesse, però tutto sommato il Kosovo ha un'economia sommersa notevole, nel senso che se uno arriva in Kosovo e vede, rispetto, che ne so, all'esempio Bosnia, che dopo 4-5 anni c'erano ancora case da ricostruire, qui oltre ad aver ricostruito le case bruciate dai serbi, stanno costruendo case nuove su case nuove, capannoni, fabbrichette, quindi perché questo? Perché l'economia sommersa del Kosovo si basa sull'80% sulle rimesse dall'estero. Ogni famiglia del Kosovo ha 1 o 2 figli, visto che fanno molti figli, è la popolazione più giovane d'Europa, hanno 1 o 2 figli che lavorano all'estero e mandano a casa i soldi. Chiaro che se arrivano a casa 600-700 euro al mese, quando uno stipendio medio lì è di 200, con 600-700 euro al mese cominci a fare investimenti, il sogno di un di un kosovaro medio è costruirsi la casetta di due piani con due negozi sotto, affittare i due negozi a 500 euro al mese e non fare più niente per tutta la vita. Quindi bisogna cambiargli proprio la mentalità rispetto a quello che è lo sviluppo, il libero mercato e il nuovo mondo a cui stanno andando incontro. Veniamo ad un caso specifico e simbolico della situazione economica del Kosovo. Andiamo a Mitrovica con Simona, capo casale della Sopace, responsabile del progetto Dialoghi di Pace, alla quale chiediamo come si presenta oggi la città, un tempo simbolo dello sviluppo economico del regime jugoslavo. Dal punto di vista economico non è cambiato assolutamente niente, nel senso che l'economia, così come a Mitrovica, così come in tutto il Kosovo, è un'economia malata che gira intorno alla presenza internazionale, non si produce nulla. Mitrovica appunto è la città simbolo in qualche modo di uno sviluppo economico, perché si incentrava su questa fabbrica, la Trepča, che dava lavoro non solo alla città di Mitrovica, ma a tutta la municipalità e tutta la regione di Mitrovica, quindi a tantissime persone. Questo ora non è più così, la fabbrica non è chiusa, ma lavora veramente a una minima percentuale, dando lavoro a pochissime persone, fra l'altro anche in maniera saltuaria. E non ci sono le uniche cose che vanno avanti sono appunto il piccolo commercio, che appunto anche lì si basa sulla presenza internazionale, perché non fanno altro che aprire bar e ristoranti dove chi spende sono gli internazionali, dalla KFOR al personale delle Nazioni Unite a quello delle organizzazioni non governative. E non si produce, neanche l'agricoltura stessa stenta a svilupparsi, e segno evidente lo è che si produce pochissimo e si importa invece tantissimo, e su queste non sono basi, insomma, per uno sviluppo economico. Il voto del 23 ottobre non può non tenere conto delle tensioni interne presenti tra le diverse etnie del paese, tensioni presenti da tempo e sfociate il 17 e il 18 marzo scorsi nella sollevazione albanese, che ha rivelato una crisi profonda anche nei confronti della presenza internazionale sia della NATO che dell'ONU. Restiamo ancora a Mitrovica, città protagonista dei cosiddetti fatti di marzo, e chiediamo a Simona, capo casale della Sopace, come è cambiato il rapporto tra la popolazione e le forze internazionali. Già c'era poca fiducia in generale nelle forze internazionali, ma dopo gli scontri di marzo questa fiducia è totalmente crollata, nel senso è stata evidente una assoluta incapacità di garantire la sicurezza in particolare delle minoranze, ma in generale insomma il garantire la sicurezza, cosa che è di loro competenza in tutti gli ambiti. Questo è stato particolarmente evidente appunto durante gli scontri di marzo, dove appunto sono stati bruciate case, villaggi interi, chiese, monasteri ortodossi, senza benché minimo intervento da parte della KFOR. Anche quando sono intervenuti l'hanno fatto in maniera assolutamente inefficace. Il caso evidente, come non è successo solo a Mitrovica ma anche in altre parti del Kosovo, ma a Mitrovica appunto questo villaggio serbo Svignare, a 300 metri dalla base francese, non si è mosso un dito se non nel momento in cui sono partiti per evacuare la popolazione, lasciando in mano agli assalitori il villaggio, che è stato bruciato, e non solo bruciato ma anche il giorno dopo, i giorni successivi, è stato sempre passando di fronte al campo francese senza che nessuno intervenisse, è stato saccheggiato, è stato portato via di tutto. Insomma, io sono stata nel villaggio appena mi è stato possibile, quindi qualche giorno dopo che la situazione si era cominciata a distendere, e la visione, insomma l'immagine che ho avuto è stato assolutamente agghiacciante. Da Mitrovica ci spostiamo a Pečpeja, anch'essa città protagonista di tensioni tra la popolazione. Mauro Barisone del Tavolo Trentino con il Kosovo ci racconta chi era Tira in città dopo i fatti di marzo. Ma allora, a livello visivo non si nota nessun cambiamento rispetto alla sicurezza e quindi all'irrigidimento dei checkpoint, a un controllo maggiore della polizia, anzi. Ovviamente poi l'atteggiamento invece della popolazione rispetto a Umnik dopo i fatti di marzo è di scontro aperto, quindi se prima era un malcontento tenuto a livello privato, adesso è assolutamente plateale e quindi dichiaratamente contro. La presenza internazionale in Kosovo è sempre più ridotta ad un navigare a vista e ha perso di credibilità proprio sulla questione della sicurezza. Marco Brucoleri dell'ICS Kosovo. Gli incidenti di marzo sono stati la punta di un iceberg che pian pianino stava crescendo, questo sentimento che dal 99 al 2004 si è trasformato in esaltazione degli eroi della NATO, dei liberatori delle Nazioni Unite che ci verranno a portare qui il benessere, la democrazia e quant'altro. Altro, e pian pianino si sta affievolendo in tutta la popolazione del Kosovo in tornare con i piedi per terra e rendersi conto che la situazione non è proprio come la si pensava, ma queste mega strutture delle Nazioni Unite, fondamentalmente ed essenzialmente le Nazioni Unite, sono cominciate a vedere come una enorme macchina che forse non ha più senso attualmente che gestisca e stia in Kosovo. Questa apparente tranquillità, dico è apparente perché probabilmente questa tensione sta covando sotto la cenere e come ci sono molti segnali, molte persone dicono che potrebbe riesplodere in qualsiasi momento. Al di là del risultato elettorale, la politica internazionale deve tener conto dunque di una situazione esplosiva e dovrà ripensare la propria presenza in termini di controllo, di sicurezza e di aiuti economici. Le ONG si stanno interrogando da tempo su come ripensare alla presenza internazionale in Kosovo e lanciano alcune proposte. A Venezia, il 3-4 dicembre prossimi, si terrà il convegno annuale di Osservatorio sui Balcani dal titolo Vivere senza futuro, Bosnia e Erzegovina e Kosovo sotto amministrazione internazionale. Prima delle proposte, nelle parole di Michele Nardelli dell'Osservatorio sui Balcani. L'Osservatorio ha, insomma, tra i suoi compiti il fatto di avviare momenti di stimolo nei confronti di chi sta operando sul territorio. Il 3 e 4 di dicembre ci sarà il convegno annuale dell'Osservatorio sui Balcani dedicato al tema proprio dei protettorati internazionali nel cuore dell'Europa, perché la situazione del Kosovo è certamente lì per esplodere, per riesplodere, ma una situazione analoga c'è oggi in Bosnia e Erzegovina. Allora il problema che ci poniamo è quello di capire quali possono essere le strade che vanno ricercate per uscire da questa situazione. Ripeto, la situazione si è deteriorata in questi anni, la guerra non aiuta, del 99 non ha aiutato la risoluzione dei problemi, li ha aggravati, e quindi oggi ci si trova a dover interrogarsi su quali motivazioni di fondo possano avere sia le organizzazioni non governative che tutti coloro che in qualche modo sono interessati a costruire una prospettiva di dialogo e di pacificazione di quella regione. Qui ci sta l'idea che abbiamo lanciato dentro questo seminario del Kosovo come regione d'Europa, come regione europea, immaginando cioè una forma forte di autogoverno locale e che alla quale possa corrispondere un ancoraggio europeo e quindi uno status di prima regione europea per il Kosovo. Już poczuję, że słodko zemsta jest.